La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 26 di marzo, 16:31, primi 50 secondi in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre di essere in ascolto e di scaricarsi un podcast e vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per mandarci proposte di temi di trasmissione, opinioni e per candidarvi a raccontare anche la vostra storia. Andiamo subito al tema di oggi. Quello di oggi è un aggiornamento di un tema che per chi ci segue abbiamo affrontato già sabato scorso ai Conti della Belva dalle 10 alle 12 e vi ricordo anche l'appuntamento sabato prossimo dalle 10 alle 12 ed è un aggiornamento della vicenda che riguarda le centinaia di dirigenti bocciati come illegittimi dalla Corte Costituzionale delle agenzie fiscali, quindi l'Agenzia delle Entrate, e questa cosa è particolarmente rilevante ovviamente per le competenze dell'Agenzia delle Entrate e poi anche altri, all'Agenzia del Territorio e a quella del Demanio. E il punto è che dai tanti problemi aperti da questa bocciatura della legittimità riconosciuta dalla Corte Costituzionale, era una vicenda che durava anni, riguarda dirigenti chiamati a questa funzione senza concorso, discendono molte conseguenze, perché ce n'è una che riguarda l'impugnabilità degli atti. Sabato scorso ne abbiamo parlato, la tesi del professor Lupi era che non c'è alcuna possibilità di illegittimità degli atti firmati negli anni da queste centinaia di dirigenti. Associazione dei consumatori la pensano diversamente, anche perché già dei TAR si erano espressi diversamente, e questo è tutto un filone che riguarda le conseguenze, su cui torneremo anche adesso. La novità di oggi è che non c'è stata alcuna sanatoria, intanto. Nel frattempo la politica aveva già più volte fatto apparire l'ipotesi di sanatorie, ma di fronte a una sentenza dalla Corte Costituzionale oggi diventa tutto più difficile. E quindi da oggi i dirigenti legittimi, i 727 dell'Agenzia delle Entrate, per una disposizione sono retrocessi, quindi non sono più dirigenti da oggi. Tornano a essere dei funzionari, e il Messaggero, che tra tutti i quotidiani italiani è quello che continua a seguire questa vicenda in prima pagina oggi, ha due articoli nei quali aggiunge anche che in questa retrocessione, in attesa di capire come fare per operare e risolvere il problema, si crea immediatamente anche un grande problema di taglio delle retribuzioni, perché pensate che c'è una diminuzione media rispetto alle medie dichiarate dall'Agenzia delle Entrate tra dirigente e funzionario, che è di circa 50.000 euro lordi l'anno. Quindi questi 730 dirigenti legittimi che da oggi sono funzionari guadagnano 50.000 euro in meno. Ma il problema non è questo, né esprimere alcuna soddisfazione, come è evidente, per la retrocessione. Il problema è, a questo punto, di capire come si interviene su questa faccenda. A, B, che cosa davvero ne può discendere per i tanti contribuenti che immaginano, ascoltando anche alcune agenzie dei consumatori, alcuni movimenti dei consumatori che la pensano così, di poter a questo punto impugnare gli atti. Tenete conto che noi contribuenti nominativamente non sappiamo in realtà chi sono i dirigenti illegittimi, perché l'Agenzia delle Entrate ovviamente non ci dà evidenza pubblica dei loro nomi. Quindi già un primo problema per chiunque pensasse di procedere singolarmente o collettivamente ad azioni di impugnativa, di nullità degli atti e delle cartelle esattoriali, solo quelle che Equitalia però spicca su richiesta di Agenzia delle Entrate, innanzitutto ci si scontrerebbe col fatto di non conoscere l'identità del dirigente in questione rispetto a coloro che sono retrocessi. Però ci sono tanti problemi su questa faccenda aperta. C'è anche un problema generale, diciamo così, perché che si sia protratto per tanti anni questa condizione di illegittimità proprio da uno negli apparati dello Stato che fa continuamente le pratiche di legalità, e come è giusto, è comprensibile ai contribuenti, beh, è uno dei tanti aspetti del paradosso delle istituzioni pubbliche italiane. Sabato scorso abbiamo ospitato due voci divergenti, quella del professor Lupi che difendeva a spada tratta il come e il perché l'Agenzia delle Entrate negli anni di Befera è rimasta in questa condizione sapendo dell'illegittimità di Centinaia dei suoi dirigenti. Il professor Stevanato era più critico, e oggi abbiamo qui due ospiti, uno dei quali prima di diventare come oggi sottosegretario all'economia al Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche segretario di Scelta Civica, però prima della politica, essendo un commercialista, su questo punto interveniva con forza, e devo dire, anche stando al governo, glielo riconosco, si è battuto per evitare sanatorie su due piedi, sia pur riconoscendo che il problema va affrontato. E quindi il primo nostro ospite è Enrico Zanetti, che io ringrazio di essere ai nostri microfoni oggi pomeriggio. Grazie a lei per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, in frattempo presento anche un altro ospite, perché abbiamo con noi anche Giancarlo Bara, che è il segretario generale di Dirpubblica, cioè Federazione Dirigenti e Funzionario della Pubblica Amministrazione, che è aderente a Confedir. Buon pomeriggio anche a Giancarlo Bara. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Noi non siamo più aderenti a Confedir. Va bene, quindi fa bene a correggermi. Però io volevo solo dire che l'ho chiamata perché mi ha molto colpito i suoi interventi nel frattempo in questo periodo, su questa vicenda, perché se uno si aspetta che automaticamente chi rappresenta è impegnato, voglio dire, nella rappresentanza dei dirigenti o funzionari, automaticamente chieda delle sanatorie, devo dire che voi non le chiedete, e quindi per questo vi abbiamo ospitato, anche per capire come la pensate. Ma cominciamo con il sottosegretario Zanetti. A questo punto, secondo lei, sottosegretario, quali sono le vie aperte per risolvere questo problema? Le vie aperte sono innanzitutto una gestione delle cosiddette posizioni organizzative, e quindi nell'ambito degli strumenti che derivano già dalla normale potenzialità organizzativa dell'Agenzia delle Entrate e anche dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Dopodiché bisogna, a mio avviso, però anche sfruttare l'occasione del disegno di legge sulla pubblica amministrazione, appunto, non per inserire normette di sanatoria che francamente non stanno in piedi, e già non stava in piedi quella abbastanza vergognosa che fu introdotta nel 2012, che adesso la Corte Costituzionale ha, come dire, bollato come quello che era, cioè come qualcosa che non andava affatto, ma appunto cogliere il disegno di legge sulla pubblica amministrazione per arrivare a distinguere in modo opportuno i percorsi dirigenziali, che sono una cosa, dai percorsi di carriera funzionariale tecnica. Cerco di spiegarmi velocissimamente. Il dirigente è un gestore di risorse umane e materiali per il funzionamento degli uffici. Non è necessario che sia un tecnico, e anzi il tecnico è un'altra cosa. Il tecnico del diritto tributario è più appunto un funzionario che con un elevato grado di specializzazione deve essere messo in condizioni di fare un percorso di carriera importante, avendo anche ai livelli più alti dei livelli remunerativi assolutamente comparabili a quello di un dirigente. Ma questo va fatto. La gestione entrate non ha bisogno di una marea di dirigenti con incarichi fiduciari e a tempo determinato, che rendono tra l'altro queste persone le prime vittime del sistema, perché alcuni di loro sono dei beneficiati che probabilmente con un concorso non sarebbero mai arrivati alla dirigenza, ma molti altri di loro sono persone preparatissime che un concorso lo vincerebbero e hanno tutto il diritto di essere dirigenti, non a tempo determinato sulla base di un incarico della dirigenza apicale di turno, ma di essere dirigenti sulla base della loro bravura, del concorso superato, e poter anche, come dire, svolgere la loro funzione senza alcun tipo di, come dire, rapporto riconoscente verso chi gliel'ha dato, in un contesto in cui tutto sommato non gli spettava. Possiamo sentire un secondo? Abbiamo un audio. Qualche giorno fa il ministro e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, proprio su questo tema, erano intervenuti con alcuni giudizi. Voi state lavorando in condizioni estremamente difficili. Siamo tutti ben coscienti del fatto che la recente sentenza della Corte Costituzionale non ha facilitato il lavoro dell'Agenzia. Vorrei dire solo due cose a questo proposito. Primo, che non è posta in discussione la legittimità degli atti effettuati. E secondo, che ovviamente questo problema è all'attenzione congiunta dell'Agenzia, della Direzione e del MEF. Trarremo spunto da questo episodio non per soltanto permettere una continuazione del lavoro normale, ma soprattutto per risolverlo alla radice. Per noi è un momento difficile, ma come ho detto molto chiaramente, le sentenze non si commentano, si rispettano. Vi dico solo che queste sono persone che sono state selezionate per il merito e che si sono impegnate in uno stato di precarietà, quindi con un contratto a termine, senza alcuna garanzia, senza assistenza pensionistica e previdenziale per quella parte. Quella scelta l'agenzia l'ha fatta sulla base di una legge, che poi è stata dichiarata incostituzionale, ma è una legge. Quindi nessuno di loro è fuori legge, illegittimo o corrotto. Ci saranno delle scelte che il governo e il Parlamento faranno, noi faremo appena possibile, che ci vorrà una legge per farci fare un concorso, quando ci faranno sta legge noi faremo un altro concorso, sperando che di arrivare a portarlo a termine il più breve tempo possibile. Io voglio solo però riconoscere l'impegno, la legittimazione e la doveroso rispetto nei confronti di persone che hanno lavorato seriamente, perché ho letto troppi titoli che non mi sembrano generosi. Allora, a me è capitato l'indomani di scrivere e di criticare queste parole del direttore Orlandi dell'Agenzia delle Entrate. Va riconosciuto che il problema lei l'ha trovato in eredità, perché il direttore Orlandi è appena arrivato, insomma, da pochi mesi nell'incarico di vertice dell'Agenzia delle Entrate. Questo è un problema che si forma in tutti gli anni di guida da parte di Attilio Befera dell'Agenzia delle Entrate. Però a me non piace molto l'idea che la continua difesa che è tutto perfettamente legittimo, perché in questo caso uno può dire di rispettare la sentenza della Corte, ma in realtà ne nega esattamente il fondamento e il dispositivo, visto che invece la Corte dice che sono illegittimi perché non c'era un concorso. Forse una parola di scuse, anche se avrebbe dovuto pronunciarlo chi era prima di lei al vertice dell'agenzia, sarebbe stata legittima nei confronti dei contribuenti, e questo non significa mancare di rispetto professionale e personale naturalmente alle centinaia di dirigenti dell'apparato tributario dello Stato. Però il problema c'è, perché appunto Enrico Zanetti se ne occupava da prima di fare politica. Il problema c'è, come sa chiunque tecnicamente si è occupato di questo. Posso fare un'altra domanda al sottosegretario Zanetti nei confronti delle associazioni dei consumatori che a questo punto si propongono atti di impugnativa nei confronti delle cartelle esattoriali spiccate su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e chiedono per questo accesso agli atti della pubblica amministrazione per sapere gli elenchi nominativi dei dirigenti. Come ci si orienterà? Cioè, la vostra linea è che a questo punto, come secondo me sarebbe giusto, se la vede il giudice di merito di fronte all'impugnativa, ma non bisogna impedire le impugnative, oppure la vostra tesi ufficiale è che non c'è proprio base giuridica per le impugnative? No, impugnative ci mancherebbe altro, se si possono impedire, ognuno ha diritto di fare quel che ritiene. E tra l'altro, da questo punto di vista, ho trovato singolare che oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate definisse vergognosa l'ipotesi che qualcuno ricorra. Non è questione di vergogna, di cose vergognose in questa vicenda ce ne sono molte, e questa non è certo quella che metterei in cima. Io ritengo assolutamente, da un punto di vista anche tecnico, parlando in questo caso più per il mio passato che per il mio presente, che gli atti francamente siano legittimi. Al massimo potrebbero esserci dei dubbi per quegli atti firmati da dirigenti incaricati che erano stati a loro volta delegati nella funzione da un altro dirigente incaricato. Lì si creano, insomma, la situazione è complessa. È proprio questo il problema, perché consentire con una richiesta di accesso agli atti della pubblica amministrazione significherebbe consentire di individuare esattamente con precisione la lista di quei dirigenti lì delegati di cui stava parlando. Anche se solo ci fermassimo, lo dico ancora una volta al tecnico, non al sottosegretario, agli atti per i quali sono ancora aperti i termini dell'impugnazione amministrativa, cioè quelli della fine dell'anno scorso, però il problema è che per poter procedere bisogna poter contare su una collaborazione dell'agenzia, perché altrimenti si procede alla cieca ed è sbagliato, ovvio. Io confido, adesso vedremo come orientarci, cercheremo in tutti i modi di trovare una soluzione al problema sotto ogni punto di vista, ivi compreso naturalmente anche la situazione dei dirigenti stessi, fermo restando che, ripeto, la mia solidarietà, oltre che agli 800 dirigenti, va anche alle migliaia e migliaia di funzionari dell'agenzia che in questi anni non hanno avuto la possibilità di competere per la loro carriera in un concorso. La mia solidarietà va a tutti, francamente. Comprendo che chi oggi si ritrova con una decurtazione di stipendio senza averne una sua colpa propria sia disorientato e ne ha tutto il diritto, però la legge è legge. Sappiamo bene che quando un contribuente si ritrova ad esempio con una cartella esattoriale assolutamente infondata, ma ormai non più impugnabile, gli si risponde: ci dispiace, ma è legge, vale per tutti. E questo vale per tutti. Io sono assolutamente fermo nella costruzione di un fisco che sia democratico ma rispettoso delle regole, sia quando tocca al contribuente, sia quando tocca naturalmente a chi lavora nel perimetro della pubblica amministrazione. Dovremmo trovare delle soluzioni, la trasparenza però è dovuta, spero che ci sarà una certa attivazione sul punto da parte di tutti, perché per ora, devo dire la verità, vedo un forte silenzio anche da parte di forze politiche diverse dalla mia, perché in questo momento a parte Scelta Civica vedo un gran silenzio, anche da parte di forze politiche che di solito urlano sempre baciamo le tasse, poi su una vicenda come questa si distraggono. Io credo che un fisco equilibrato, rispettoso dei cittadini, dei contribuenti, passa ancora prima per una gestione attenta da parte della politica di vicende come questa, che non attraverso le urla manzoniane di abbassamenti di tasse utili solo per fare campagna elettorale. È adesso che si vede chi sta sul pezzo, chi anche da dentro le istituzioni ha il coraggio di andare fino in fondo nelle battaglie e non si dimentica che le cose che diceva quando voleva farsi eleggere le voleva fare davvero. E mi consenta, è anche una, sarebbe una bella dimostrazione di una politica che torna lei a esercitare l'indirizzo della politica tributaria, delegato da molti anni dalla scrittura dei testi normativi tributari alla loro autointerpretazione, in parole povere, all'Agenzia delle Entrate e non a chi ha la responsabilità politica del ministro. Questo è un mio giudizio, però insomma io direi che si comincia proprio di qua, che un politico dica la sentenza e c'è stata, e a questo punto, cara capa dell'Agenzia delle Entrate, si fa così, rispettando la sentenza e insieme i contribuenti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16:49, primi 53 secondi. Stiamo parlando dello sviluppo che c'è stato dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato come illegittimi quasi un migliaio di dirigenti pubblici delle agenzie tributarie. In particolare sono 767, ho detto 27, ma sono 767 l'Agenzia delle Entrate. E da oggi retrocessi a funzionari, perdono quasi 50.000 euro lordi di retribuzione. No alle sanatorie, ci ha detto Enrico Zanetti, il sottosegretario al MEF, che con noi, bisogna vedere all'interno del disegno di legge Madia, ma trasparenza della pubblica amministrazione, perché è il caso anche nel fisco, che giustamente fa pratica di legalità a noi, di essere pienamente trasparenti e quindi anche nella verifica degli atti eventualmente impugnabili. Alcune delle vostre opinioni con gli sms, chiede per esempio Roberto, ma devono restituire anche quanto percepito in più? Che io sappia, no. Roberto, capisco lo spirito della tua domanda. Altri dicono che invece che impugnare gli atti bisognerebbe impugnare qualcos'altro, ma naturalmente noi siamo legalitari, pur essendo molto fermi nella difesa dei diritti del contribuente. Sentiamo l'opinione di Giancarlo Barra, che è il segretario generale di Dir Pubblica. Come è stato possibile per anni restare in questa condizione senza concorsi, e voi come la vedete dopo la sentenza? Che misure procedete a proporre alla politica adesso? Sì, dunque io prima di tutto la ringrazio di aver ricordato che questa esigenza di legalità viene dall'interno della pubblica amministrazione, perché noi siamo espressione di impiegati e di dirigenti della pubblica amministrazione, e sono 15 anni dalla nascita delle agenzie fiscali che noi rincorriamo questa situazione. Ecco, e in questi 15 anni siamo arrivati poi a una sentenza epocale della Corte di Cassazione. Quindi voglio fare alcune precisazioni su quello che ha detto il Ministro e quello che ha detto anche la signora Orlandi. Cioè, non è vero che si è trattato di che la Corte Costituzionale ha bocciato una legge che prima consentiva di nominare dirigenti sul campo. Non è affatto vero. Il problema era proprio questo, che nelle agenzie fiscali è stata instaurata una figura non prevista dalla legge, dal testo unico del 165/2002, la figura del dirigente incaricato. Ecco, il problema, tutti i ricorsi sono venuti da questo. La Corte Costituzionale... Ricordiamo anche che c'erano state anche sentenze del TAR, in particolare la legge su cui interviene la Corte Costituzionale era successiva a una bocciatura da parte del TAR Lazio, proprio alla nomina di funzionari dell'Agenzia delle Entrate a dirigenti pur senza la qualifica. Sì, ma questo è il percorso quindicennale, proprio da questo, perché non si va direttamente in Corte Costituzionale, ci va il giudice, no? Esatto. Ecco, allora, il TAR Lazio si è pronunciato e ha dichiarato nulli quegli incarichi, quindi gli incarichi non sono diventati nulli oggi a seguito della sentenza. erano già nulli prima. L'Agenzia delle Entrate ha fatto appello al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha mandato tutti gli atti in Corte Costituzionale. Perché? Perché il governo Monti e poi il governo Letta e successivamente il governo Renzi hanno fatto una sanatoria per legge, visto cioè che il TAR aveva annullato il regolamento d'amministrazione e dichiarati nulli gli incarichi, cioè quindi mai esistenti. Ecco, considerato che la questione era finita in Consiglio di Stato, il governo Monti ha tentato una sanatoria. Questo è il passato. E adesso voi che poi questa sanatoria, adesso che fare? Sì, ma io le do atto che voi vi siete battuti in tutti questi anni, per questo, perché ci avevo fatto caso. Adesso che fate? Che proponete? Che cosa proponiamo? Allora, prima di tutto non c'è bisogno di tutta questa pletora di dirigenti che è stata costruita ad hoc. Applaudi. Per creare una piramide. Applaudi. Non ce n'è assolutamente bisogno. Lei consideri che in una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ci sono 3 o 4 dirigenti. Nessuno ha visto mai una nave incapitanata da 4 soggetti dello stesso. Secondo? No. Ecco, allora la prima cosa è questa. La seconda cosa, certamente bisogna instaurare nella pubblica amministrazione un qualche cosa che sta, uno stato cuscinetto fra l'impiego e la dirigenza. Infatti noi parliamo di predirigenza ed era questa una soluzione che andava, diciamo, effettuata già da parecchi anni, immediatamente. Allora, io la devo interrompere qua, ma noi io continuerò a occuparmi nella trasmissione dello sviluppo di questa vicenda finché non sarà in qualche modo affrontata, anche perché noi ci dobbiamo occupare dei contribuenti che ci chiedono come fare sulle impugnative, è il nostro mestiere dare risposte precise. Ringrazio gli ospiti, continuate su Radio 24, appuntamento a domani.